2024 2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, ecco a voi una nuova puntata di 2024, il programma dedicato alla tecnologia di Radio 24. Questa sera parleremo di alcune trasformazioni tecnologiche che in realtà si insinuano fino al cambiamento della società. Parleremo di un concetto che va sotto il nome di Network Society, quindi la società che si basa su rapporti, relazioni dovute in gran parte anche al beneficio che deriva dall'uso della tecnologia, non più centralizzati questi rapporti, bensì decentralizzati, un aspetto molto interessante che affronteremo più tardi. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, è 2024@radio24.it, quindi 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook e su Twitter. Come spesso succede, iniziamo con alcune notizie in breve della settimana, le nostre Digital News. Digital News. Iniziamo da una bella iniziativa. La prossima settimana, dall'8 al 14 dicembre, si terrà la settimana di educazione all'informatica, organizzata in tutto il mondo da Code.org, un'organizzazione no profit senza fini di lucro che promuove la cultura informatica, la cultura della programmazione in tutto il mondo. Allora, all'interno di questa settimana ci sarà un'iniziativa che ormai ha ottenuto un grandissimo successo, non è la prima edizione, si chiama Hour of Code, l'ora del codice. Un'ora di introduzione all'informatica per dimostrare che chiunque può impararne le basi. In Italia ci sono 5.200 eventi, soprattutto nelle scuole, quindi ci sarà questa ora del codice in tantissime scuole. L'11 dicembre ci sarà un'ora di codice anche negli Apple Store in tutto il mondo. Digital News. Dalla notte di venerdì 5 dicembre arriva anche in Italia, e in italiano, questa è la cosa importante, la versione alfa di Cortana, l'assistente personale digitale di Microsoft, simile al Siri di Apple e Google Now. Allora, essendo una versione alfa, quindi non la beta che è disponibile di solito per tutti, la versione alfa è disponibile solo per un pubblico selezionato, comunque volendo lo possono aderire tutti al programma Windows Phone Preview Program. Ci si deve iscrivere ed è possibile quindi far parte di questo club, soprattutto di sviluppatori che potranno utilizzare questo sistema che impara, e proprio l'uso nei vari paesi e nelle varie lingue ne migliorerà le funzioni. Quindi la stessa Microsoft dice usatelo, e più usate questo sistema il sistema migliora. Cortana arriva in versione alfa anche in Francia, Germania e Spagna, dopo essere arrivato in India, Canada e Australia. È invece già in versione beta per il mercato americano, inglese e cinese. Una notizia che riguarda il mondo della TV in alta definizione. Sul digitale terrestre è raro vedere un buon prodotto in alta definizione. Allora, per la prima della Scala di Milano, il 7 dicembre, andrà in scena il Fidelio di Beethoven in tedesco. Allora, la RAI trasmetterà questa opera in alta definizione con audio surround 5.1 su RAI HD. Digital News. Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno trovato un accordo e approvato le norme che renderanno obbligatorio il sistema e-call su tutte le nuove auto e i furgoni leggeri venduti nell'Unione europea dal 2018. E-call, dove la E, cioè che è la E americana, sta per emergency call, chiamata d'emergenza. Allora, si basa su una SIM a bordo del veicolo collegata con sensori come ad esempio il GPS con degli accelerometri, il tutto collegato alla centralina dell'auto. Questo sistema è in grado di rilevare la posizione dell'auto e un eventuale incidente, collegare il pilota al numero unico europeo d'emergenza. Quindi questo sistema vale in tutta Europa, va in roaming tranquillamente perché naturalmente i numeri d'emergenza sono gratuiti, il 112. In caso di non risposta può anche inviare i soccorsi nella zona dove si trova l'automobile. Un'ultima notizia riguarda la sicurezza informatica. Ogni settimana abbiamo notizie su questo tema. Allora, negli ultimi 10 giorni molti stanno commentando quello che è successo alla Sony Pictures. la divisione film della Sony, che ha sede negli Stati Uniti. Allora, emergono nuovi particolari sul mega attacco informatico, uno dei più grossi degli ultimi anni. Gli hacker hanno messo le mani su film inediti, migliaia di dati sensibili dei dipendenti di tutti i tipi, e sono stati già diffusi 40 gigabyte di dati riservati, ma gli hacker sostengono di avere altri 100 terabyte di materiale che potrebbero distribuire. Non è la prima volta che Sony cade sotto gli attacchi di hacker, era già successo in un altro caso, erano stati diffusi i dati di alcuni clienti, in questo caso invece fortunatamente sono solo dati interni all'azienda. A proposito di eCall, della chiamata d'emergenza, questo sistema che entrerà in vigore a partire dal 2018, anche se le intenzioni della Commissione Europea erano quelle di far partire il tutto già il prossimo anno. Allora, a tal proposito, se andate sul nostro sito internet www.radio24.it e andate nella sezione archivio, cioè comunque dove c'è la finestrella con cerca, se voi scrivete eCall, che è scritto eCall con due L, trovate la puntata di 2024 di qualche mese fa in cui abbiamo parlato di una sperimentazione che c'è stata a Varese, dove già attivo da tempo il numero unico d'emergenza 112, una sperimentazione che è stata fatta proprio sul funzionamento dell'eCall. Quindi una serie di automobili sono state dotate di questo sistema già un paio di anni fa e hanno sperimentato questa chiamata d'emergenza in caso di incidente, o anche in altri casi, perché ci potrebbe essere un caso di emergenza, uno schiaccia un bottone e automaticamente parte questa chiamata di soccorso al numero unico d'emergenza 112. Quindi vi consiglio di andare sul nostro sito internet e vi consiglio anche di abbonarvi gratuitamente al nostro podcast. In questo modo avete la possibilità di ottenere settimana dopo settimana le nostre puntate in versione aggiornata, e come sapete spesso nel nostro podcast mettiamo tutte le nostre interviste in versione integrale, e non è detto che sempre in versione integrale sia possibile mandarle in onda alla radio, naturalmente per motivi di tempo di palinsesto. Dunque, questa settimana, tra le tante cose che sono successe, per la verità questa settimana sono successe un po' meno cose rispetto al solito a proposito di tecnologia, questa settimana si festeggiano i 20 anni di Sony PlayStation. È stata lanciata sul mercato giapponese il 3 dicembre 1994, in Europa e Stati Uniti arriverà circa un anno dopo, poco meno di un anno dopo, nel settembre 1995. Io non sono un grande amante dei festeggiamenti, delle ricorrenze, però sicuramente questi 20 anni di console da videogioco di Sony PlayStation ci danno anche l'opportunità per fare il punto sul mondo del videogioco, che è un mercato che vale circa 1 miliardo di euro in Italia, quindi un mercato sicuramente interessante, fatto da hardware e da software. Con software intendiamo i videogiochi, i videogame, ma non solo i videogame, perché oramai sulle console da videogioco, e non solo sulle console, perché i tablet sono diventati la nuova console per videogiocare, certo anche gli smartphone, ma soprattutto i tablet. Insomma, questo è un mercato che si sta sempre più allargando anche a cose che non sono più solo videogioco, ma che hanno magari un ingrediente di gioco, ma non sono solo ludiche, magari sono anche cose in cui si imparano cose. Però facciamo il punto con Luca Tremolade del Sole 24 Ore, che scrive su Nova, lo trovate la domenica siamo al Sole 24 Ore, ma è anche un grande esperto, oltre che grande appassionato di videogame. Più che PlayStation arrivò una persona che si chiamava Ken Kutaragi, che è un manager matto del mondo della Sony, che si inventò l'idea di costruire una console che funzionava con dei dischetti. All'epoca il mondo dei videogame era sostanzialmente Sega e Nintendo, quindi un mondo completamente giapponese. Kutaragi è sempre stata una persona sopra le righe e fuori dagli schemi. Riuscì in maniera anche faticosa a portare sul mercato questa macchina che cambiò il mondo del videogame. Dal c'è un prima e un dopo PlayStation, si può dire. Con la PlayStation la parola console entra un po', anzi diciamo che PlayStation è il sinonimo di videogame, in particolare la PlayStation 2, la versione 2. Da quel momento in poi tutti quanti sono cominciato a giocare a casa. Prima si andava, non so se ti ricordi, nei bar, giochi, con i coin up a mettere i soldini dentro. Da quel momento in poi, insomma, sono entrati nei salotti delle case italiane. Diciamo che è diventato popolare il videogioco. Prima con Sega e Atari non era tanto popolare? No, Atari inventò Pong, era un po' più di nicchia, un po' più da ricchi, e poi i giochi erano molto brutti, diciamocelo. Diciamo che l'altra caratteristica di questa console è che era estremamente potente, per cui sono cominciati a comparire i poligoni sugli schermi, per cui la grafica non erano più i quadrettoni a cui eravamo abituati all'inizio degli anni 90. Il mondo poi è cambiato e tra l'altro i videogiochi sono una bellissima lente di ingrandimento per capire anche l'evoluzione del digitale, per cui l'evoluzione delle tecnologie legate al digitale. Comunque. Soprattutto la grafica, insomma. Ad un certo punto, visto il grande successo di PlayStation 2 in modo particolare, come tu ci hai ricordato, qualcun altro ha detto: beh, forse in quel mercato è bene esserci, è bene andarci. E quindi arrivarono dei competitor molto forti. Sì, si parla dell'età dell'oro delle console. Nintendo non se n'è mai andato, però hanno cominciato a giocare forte, a puntare sull'innovazione, e concepì in un momento tutto sommato dove la sfida era due, era un duopolio, come oggi c'è Apple e Samsung sul mondo dei telefonini. Negli anni in cui i due grandi rivali erano Microsoft con Xbox, quindi fu una scelta di Ballmer quella di entrare nel mercato delle console con la Xbox, e PlayStation con PlayStation 2 e poi con PlayStation 3, i giapponesissimi di Nintendo tirano fuori dal cappello la Wii, che era una macchinetta piccolina, molto giapponese, con un'idea assolutamente innovativa: giocare con le mani. Quindi meno tecnologia rispetto a meno potente, però l'idea è rivoluzionaria. È rivoluzionaria perché? Perché il videogioco, dal un business per pochi appassionati, è diventato un business anche per i nonni, per i papà, perché potevano giocare tutti, non era più necessario capire quale bottone schiacciare. L'idea geniale della Wii fu dire: muovendo le mani, facendo finta di giocare a tennis o simulando di suonare uno strumento, uno può giocare. Fu un'idea geniale, le console diventarono un business importante. Wii diventò la più venduta. Quindi stiamo parlando di anni all'interno tre o quattro anni fa, parliamo di tre o quattro anni fa, è arrivato al nuovo ciclo. I signori di Sony, che insomma si sono visti rubare lo scettro e passare degli anni a mordere a masticare amaro, ecco, tirano fuori la PlayStation 4, cioè quindi siamo entrati nella next gen delle console, e con PlayStation 4 e Xbox One si entra nei giorni d'oggi, nei nostri tempi, e PlayStation vince sostanzialmente, perché in questo momento hanno il 60% del mercato e il 70% del mercato italiano. Infatti sono contenti, hanno festeggiato un grandissimo compleanno per questi 20 anni, sono tornati ad essere i numeri uno. Nintendo ha sbagliato console, la Wii U non è una console vincente, però attenzione che loro sono i più innovativi di tutti, per cui questo è un mondo molto che può cambiare da un momento all'altro. Sì, io ricordo, una delle poche cose che ricordo molto bene del mondo del videogame è che per tantissimi anni i grandi esperti davano per morta Nintendo, invece Nintendo è sempre resuscitata e si è inventata sempre qualcosa di nuovo, quindi vedremo che cosa succederà nei prossimi anni. Senti, a proposito di Next Gen, che sta per Next Generation, la prossima generazione di console, che cosa hanno queste console, in particolare PlayStation 4 e l'ultima Xbox, di diverso, anche tecnologicamente avanzato? Di diverso hanno che sono potenti come un personal computer medio, ma soprattutto hanno accumulato un'esperienza nello sviluppo di software, quindi di giochi, di altissimo livello. Per cui quello che è cambiato è l'ecosistema intorno alle console. Le macchine non sono più delle scatole magiche di innovazione, sono gli sviluppatori, i game designer, coloro che costruiscono e scrivono i videogiochi, che sono diventati molto bravi. Citami due o tre videogiochi che ti piacciono molto e che ci fanno capire, non li possiamo fare vedere ovviamente, ma che ci fanno capire dove sta l'innovazione, che cosa si può fare. Effettivamente si vedono cose incredibili, bellissime oggi, usando anche l'alta definizione. Ma cito The Last of Us, che è un'esclusiva Sony, semplicemente perché è stato il gioco più premiato l'anno scorso, per cui cito quello che è il campione non solo di incassi ma di premi, ed è una storia, è come entrare in un film, una storia di zombie ma con un profilo e dei contenuti assolutamente per adulti, per cui c'è una parte molto emozionante, insomma si racconta una storia come solo il cinema sapeva raccontarlo. L'altro gioco, che lo cito semplicemente che ha fatto 1 miliardo di incassi e sono cifre straordinarie, è Grand Theft Auto 5, ne avete sentito parlare, dove ci si muove in un mondo in tre dimensioni completamente liberi di fare proprio quello che si vuole, anche il peggio. Tu, Luca, hai citato un fenomeno che è interessante, probabilmente alcuni dei nostri ascoltatori lo conoscono, ma è utile spendere due parole su questo strano successo di milioni di persone che su internet guardano video di persone che videogiocano. E uno potrebbe dire, ma che senso ha? Allora, quando è comparso ci siamo tutti domandati il senso, poi Amazon ha acquisito Twitch per 1 miliardo e abbiamo cominciato a cercare di capire un po' meglio. Che cosa succede? Che Twitch è una piattaforma dove ci sono questi video? È una piattaforma di condivisione esattamente come YouTube, con la differenza che una persona che ha una console può, si dice, streamare in gergo, però può trasmettere in diretta online la propria partita commentandola. Per cui si vede la partita del giocatore e la faccina del giocatore, appunto, che racconta quello che sta succedendo. Può sembrare un'operazione assolutamente noiosa, in realtà queste cronache sono esilaranti e le persone seguono la partita per scoprire trucchi e per capire come giocare, per cui ha un suo perché. Contate che la stampa specializzata, tutta la stampa specializzata di videogames ormai si sta spostando su questa piattaforma per raccontare in maniera diversa il videogioco. Adesso parliamo brevemente di un nuovo smartphone che arriva anche in Italia. Ne avevamo parlato con un breve accenno durante il Mobile World Congress di Barcellona, che si tiene nella prima parte dell'anno, quindi tra febbraio e marzo. Lo Yotaphone è un prodotto russo realizzato dalla Yota Device, che è un'azienda russa che ha avuto un finanziamento del 25% da un fondo statale e il resto da capitali privati. È abbastanza originale che arrivi uno smartphone di elevato livello, anche molto originale, poi capirete il motivo, dalla Russia, quindi è una cosa piuttosto strana. Tuttavia è stato presentato, era un progetto che esiste già da un paio di anni. Lo Yotaphone 2 è diventato anche più esteticamente più bello, tecnologicamente più avanzato, è stato presentato a Barcellona ed è arrivato sul mercato anche in Italia. Qual è la particolarità di questo telefono? E quasi tutti gli esperti sono concordi nel ritenerlo uno dei prodotti più originali degli ultimi tempi. Allora, si tratta di uno smartphone Android che da un lato ha un classico display OLED Full HD a un 5 pollici, quindi un bello schermo molto grande, e da questo lato può sembrare un normale smartphone. Dalla parte opposta, quindi sul retro, c'è un altro display con e-ink, inchiostro elettronico, cioè la stessa tecnologia che viene utilizzata per gli e-book reader, una tecnologia in bianco e nero con sfumature di grigio. È uno schermo, in questo caso 4,7 pollici, la cui caratteristica principale è quella di consumare pochissima energia. E poi c'è anche un'altra caratteristica che sicuramente è utile, che una volta mostrata un'immagine, una scritta, un orologio oppure un testo scritto su questo display, si può tranquillamente andare alla luce del sole all'esterno e proprio grazie a questo tipo di tecnologia ad inchiostro elettronico non c'è nessun riflesso, il tipico riflesso che notiamo su uno smartphone che ha un vetro sopra al display. Certo, ci sono tecnologie negli ultimi tempi che sono state adottate antiriflesso, ma comunque rimane sempre questo problema. E queste due caratteristiche sono quelle che sottolinea e ha sottolineato Vlad Martinov, che è il CEO, il fondatore, l'amministratore delegato di questa società che porta anche in Italia lo Yotaphone 2. In half two days on one single charge and all basic functions of smartphone in a power safe mode. We can have 5 days on a single charge in a reading mode. You can read books for up to 100 hours. Ci dice Vlad che questo telefono si mantiene in vita carico per 2 giorni con le funzioni base dello smartphone e addirittura per 5 giorni con le funzioni solo della parte dello schermo, del secondo schermo con inchiostro elettronico, quello tipico degli e-book reader. It's the only phone you can use outdoors in direct sunlight. E poi ci spiega anche questa caratteristica che se uno va all'esterno non c'è un riflesso solare. È sicuramente, dicevo, un'idea originale. Se vogliamo, l'unico problema è il prezzo. Secondo gli esperti non sarà un problema, vedremo poi se sarà così. 749 euro. Sicuramente le caratteristiche tecniche, in termini di processori, di memoria, di connettività, eccetera, eccetera, di questo prodotto lo posizionano al vertice tra i migliori smartphone e sicuramente questa caratteristica di avere il doppio display richiede alcune particolari esigenze che quindi fanno un po' lievitare il costo, però sicuramente stiamo parlando di un prodotto che costa un sacco di soldi. Vedremo come andrà il mercato. Certo è che si tratta, in un mondo come quello di Android, nel quale quasi tutti i telefoni si assomigliano molto, sicuramente questa è una cosa molto originale. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, ci fermiamo per qualche minuto, poi cominciamo a parlare di Network Society. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024. Vi ricordo che tra poco, al termine della nostra puntata, sarà disponibile nel nostro sistema podcast. Quindi vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast, di scegliere una piattaforma. Se usate un prodotto con iOS, sicuramente l'applicazione di Apple Podcast è perfetta. Se no ci sono tantissime altre soluzioni. Potete andare anche sul nostro sito internet, potete usare la nostra applicazione, l'applicazione di Radio 24, oppure ad esempio TuneIn, molto diffusa, ma soprattutto su Android, di applicazioni che gestiscono i flussi podcast ce ne sono decine e quindi potete provarne tante. Scrivete, andate a cercare su Play Store con la parola podcast e vi appare una lista molto lunga. Dunque, un'ultima considerazione sull'intervista breve che ho fatto sentire a Vlad Martinov sullo Yotaphone. Yota è scritto con la Y, Yotaphone. Adesso c'è la versione 2, quindi Yotaphone 2, perché questa è un'idea che non è nuovissima. No, ricordo che un nostro ascoltatore aveva, dopo una puntata in cui avevamo parlato di ebook reader, ci chiedeva: ma non è possibile realizzare un tablet che da una parte ha il display classico LCD OLED di un tablet, tipico di un tablet, dall'altra parte ha un display con e-ink, inchiostro elettronico, tipico degli e-book reader, 2 in 1, che è esattamente il concetto dello Yotaphone. Quindi quell'ascoltatore aveva in mente quello che poi questi russi hanno realizzato. Allora, ricordando questa email di questo ascoltatore, ho fatto una domanda a Vlad Martinov dicendo: ma non è che poi farete anche il tablet? Ha detto no, per adesso no, anche perché, dico io, se poi ce l'avessero in canna veramente non me lo verrebbero a dire, non lo terrebbero ancora segreto, però mi sembrava sincero. Allora, due considerazioni. Dice Vlad Martinov: ci dobbiamo concentrare su questo prodotto per il momento, perché siamo ancora una startup e questo prodotto è tutt'altro che un successo per il momento. È una bella idea originale, però poi bisogna venderlo a 749 euro. E poi mi ha detto una cosa sicuramente interessante, l'esigenza di avere batterie più performanti, quindi di allungare la durata delle batterie, è un problema che c'è soprattutto sugli smartphone. E visto che questo prodotto è stato realizzato con questo secondo schermo, con questa tecnologia per risparmiare batteria sostanzialmente, loro dicono sui tablet non c'è questa esigenza. Il nostro ascoltatore intendeva dire: quando voglio leggermi un libro senza affaticare la vista, scelgo la parte di questo ipotetico tablet con inchiostro elettronico, se no uso il tablet normalmente. Vedremo, insomma, è sicuramente una idea. Saluto David Orban, bentornato a 2024. Grazie Enrico. David Orban, alcuni dei nostri ascoltatori più fedeli lo conoscono, insegna e rappresenta nel mondo, in particolar modo in Italia, la Singularity University. Ti faccio ridire una parola sulla Singularity University. Che cosa fate? È un mondo di persone strane, no? Fondato da Google e da NASA, e studia l'impatto della tecnologia esponenziale sulla vita delle persone, sulle strategie delle imprese e sulle politiche che governi in tutto il mondo devono adottare per poter capire il mondo come sta cambiando radicalmente, a partire dalla legge di Moore che tutti conosciamo, che fa diventare i computer sempre più potenti, ma che oggi sta esplodendo in direzioni inaspettate. Esatto. A proposito di questi cambiamenti, tu hai fondato da pochi mesi, e ne hai già parlato in alcuni ambiti, e io ho seguito questi appuntamenti, mi sembrano molto, molto interessanti. Hai fondato una associazione no profit che si chiama Network Society. Innanzitutto ti chiedo che cosa intendi per Network Society, società della rete. Il cambiamento socio-economico può avvenire solo se c'è un fondamento tecnologico solido che lo rende sostenibile. Ed è oggi in corso una trasformazione che mette nuove opportunità basate su tecnologie decentralizzate e distribuite a livello mondiale, una serie di implementazioni che risultano molto più efficienti e competitive rispetto a quelle tradizionali, centralizzate e gerarchiche. Questa trasformazione sarà enorme, un vero e proprio cambiamento di fase, un po' come il formarsi dello Stato-Nazione 400-500 anni fa ha spazzato via i principati, le città-Stato, e oggi non c'è un metro quadrato sul pianeta che non appartenga ad uno Stato-Nazione. La Network Society nei prossimi 10-20 anni trasformerà in modo analogamente radicale il modo in cui facciamo impresa, in cui apprendiamo, in cui realizziamo le potenzialità della nostra vita. Mi fai alcuni esempi di tecnologie che stanno cambiando la società o cambieranno la società e il business in questa direzione? Ricordiamo che uno dei freni, uno dei vincoli maggiori sarà la legge, i regolamenti, la legislazione, che naturalmente deve e dovrà cambiare e adeguarsi alla tecnologia. È successo, se noi guardiamo la storia delle nazioni, sempre le regole si sono o lentamente o velocemente, dipende dai casi, dalle ere, adeguate alla tecnologia. Ecco, a quali tecnologie stiamo facendo riferimento e soprattutto a che uso delle tecnologie stiamo facendo riferimento? Abbiamo identificato 8 pilastri fondamentali, relativamente arbitrari ma importanti. Energia, dove invece di parlare di una centrale a carbone o a gas, un enorme investimento. Con 30 anni di ammortamento e di ritorno su questo investimento, l'energia solare con i pannelli fotovoltaici è a disposizione di tutti attraverso l'iniziativa individuale delle persone o delle aziende, e offre una fonte di energia decentralizzata e distribuita, che quindi può adeguarsi in modo molto più flessibile alle esigenze regionali, individuali e delle strategie aziendali. Ricordo ai nostri ascoltatori che naturalmente su ognuno di questi pilastri potremmo fare una trasmissione, perché ci sarebbero molte cose da dire. Quello che noi vogliamo trasmettere oggi, e per questo che ho invitato David Orban, è capire da quali tecnologie sta arrivando questo cambiamento della società, che naturalmente non vedremo domattina, ma vedremo nel corso dei prossimi anni. Io in effetti potrei dire che alcune di queste che poi menzionerò vengono facilmente etichettate come mode. È proprio la visione d'insieme che ti fa capire come il cambiamento sia una onda profonda di inarrestabile cambiamento di fase. Il secondo pilastro è quello della manifattura, dove la stampa 3D introduce la possibilità di creare oggetti il cui valore non dipende dal capitale investito in una catena di produzione, così come era nel 1800 e nel 900, ma la cui complessità è semplicemente funzione della bravura e della creatività del progettista. E la stampante 3D ti realizza l'oggetto, stupido o bello, a seconda. Nell'agricoltura, nell'industria del cibo, la possibilità di ricorrere all'idroponica, a giardini verticali, giardini urbani. Immaginati a New York, dove già oggi un piano viene dedicato alle lavatrici e alle asciugatrici, se attraverso illuminazione LED si potesse produrre il cibo consumato all'interno del grattacielo con una variazione di preferenze arbitrariamente ampia, senza alcun uso di pesticidi. Nel campo della salute, dove i nostri telefoni cellulari stanno arricchendosi di sensori ad ogni generazione, mettendoci in grado di monitorare il nostro stato di salute intervenendo a priori, invece che troppo tardi, come l'industria della malattia oggi sta facendo. L'apprendimento, dove i cosiddetti MOOC, Massive Online Open Courseware, la possibilità di pianificare un apprendimento personalizzato, individuale, dà modo alle persone di seguire sì le proprie passioni, ma anche di costruire un valore sostenibile, invece di star seduti su un banco di scuola o di un'università 4-5 anni, con la promessa e la premessa non più vera di avere un posto di lavoro solo perché laureati, certificati. Nella finanza, l'esempio famoso conosciuto da tutti è quello di Bitcoin, che è tacciato di moda, di cospirazione, di tutte le cose più brutte possibili, sta mettendo in grado miliardi di persone, letteralmente, di cominciare a partecipare nel mondo contemporaneo attraverso i loro cellulari, mentre le banche tradizionali non sono assolutamente in grado di averli come clienti. La sicurezza, dove piattaforme come Airbnb permettono a me, a te, a chiunque, di dare la nostra casa ad una persona mai vista. Perché la cataloghi sotto il capitolo sicurezza? Perché formano reti di fiducia dove il costo della inadempienza con le regole esplicite o implicite di convivenza è enormemente più conveniente per l'individuo che non violarle, e dove non c'è bisogno a priori di una polizia che interviene dopo, ma la rete si autoregolamenta. Un po' come Wikipedia, diciamo così. Che nessuno avrebbe detto che potesse nascere prima di esistere, eppure oggi è capace di competere con enciclopedie tradizionali che in effetti ormai nessuno stampa più. Per ultimo, c'è ancora qualcosa, però. Per ultimo il pilastro, l'ottavo, quello che hai menzionato, il più difficile, che è una meta regola, è quello del governance, delle politiche, di come costruiamo gli strati che sono comunque necessari, perché la network society renderà semplicemente irrilevante lo Stato-nazione. Un po' come nelle tue trasmissioni non parli di mainframe, anche se ancora esistono e sono importanti. Gli annunci vengono dai cellulari, dai sensori, dall'internet degli oggetti. Così in futuro lo Stato-nazione dovrà accettare di avere un ruolo secondario, non più primario, nel formare la vita delle persone e delle aziende. Allora, naturalmente stiamo parlando di tanti segnali concreti che già esistono, già funzionano, che però non hanno ancora trasformato la società. A me piace spesso parlare di cose concrete e reali. In questo caso, David, stiamo parlando di fenomeni che che secondo te diventeranno visibili e tangibili in maniera massiva in quanti anni? Alcuni di questi pilastri stanno già concretamente influenzando le decisioni aziendali. È di ieri o l'altro ieri forse l'annuncio di una importante utility tedesca, un'azienda di produzione elettrica, che separerà le proprie attività in due rami, una bad company che si occuperà di idrocarburi e una good company che si concentrerà completamente sulle energie rinnovabili, perché la legislazione tedesca ha fatto sì che le prime non siano sul lungo termine più economicamente sostenibili. Sì. Allora, con te c'è anche Cosimo Orban, che è incidentalmente tuo figlio, ma in questo caso è ambasciatore italiano della Network Society. Cosimo, benvenuto. Grazie. Prima di dare la parola a Cosimo su quello che sta succedendo, a vostro avviso, in Italia, volevo che tu, Orban, ci dicessi qualcosa della Network Society, che esiste da poco tempo ma ha già ambasciatori un po' in giro per il mondo. E a posteriori sono andato a vedere, ho visto che era ormai quasi 10 anni che parlavo un po' di questi temi, però quest'estate, a seguito di una lezione che ho tenuto alla Singularity University, mi sono reso conto che il tempo era quello giusto, era maturo. E ho costituito a Londra Network Society Research, che è una non profit, appunto con attività globali. Abbiamo una rete di ambasciatori che dalla Nuova Zelanda all'Argentina, al Canada, all'India, alla Nigeria è presente in tutti i continenti, al momento non in Antartico, e le attività degli ambasciatori consistono nel articolare e nel avvicinare alle realtà concrete, anche esperienziali, delle persone nel loro rispettivo paese, quello che Network Society fa. Lo scopo, tu hai sottolineato il fatto che sia no profit, lo scopo è evangelizzare vari livelli di società verso questi cambiamenti tecnologici. Network Society rilascia tutto quanto studia sotto una licenza Creative Commons Attribution, che permette non solo una loro legale diffusione, copiatura fra virgolette, sì, ma permette anche l'utilizzo commerciale di quello che facciamo, proprio perché noi vediamo una grande opportunità imprenditoriale nel cambiamento delle strategie aziendali. Sì. Cosimo, in Italia stanno succedendo cose interessanti, visto che spesso tacciamo il nostro paese come un paese lento nel cambiamento, e per molti versi lo è. In Italia sì, stanno succedendo varie cose che stanno permettendo all'Italia di abbracciare questo cambiamento tecnologico. Uno di questi è dettato da una legge recente di questo luglio che detta nella costruzione di nuove strutture non a scopo residenziale dalla copertura maggiore di 500 metri quadri di frapporre tra gli obiettivi primari di costruzione quello di una presa elettrica adibita alla ricarica di veicoli elettrici. Questo vuol dire porre il primo passo in avanti per fornire un'infrastruttura legislativa al passo coi tempi. Questo è uno degli esempi. È un esempio, naturalmente, anche esatto. In questo caso facciamo un esempio. Tu hai detto bene, la legge è importante, perché la legge, tant'è che voi avete tenuto recentemente anche un seminario sulla Network Society alla Camera dei Deputati, poi bisogna capire quanto poi di questo viene recepito, però è importante che ci si accorga dei cambiamenti e si cerchi di adeguare, non di trasformare radicalmente dalla sera alla mattina la legge, però di cominciare ad adeguare la legge. Altri piccoli segnali? Un altro piccolo segnale può essere visto da quella che è la realtà di Uber. Uber è un servizio di noleggio di automobile con guidatore e è in molti paesi ormai uno dei competitori più agguerriti del servizio tradizionale dei tassisti. E molti lo preferiscono soprattutto per il livello di qualità del servizio, ma in una nota più negativa si può vedere Uber come un servizio privato non conforme a quelle che sono le norme di regolamentazione a cui invece i comitati dei tassisti si sono dovuti normalizzare. E in molti stati questo ha comportato delle rivolte anche violente verso quelli che sono i guidatori Uber, e in alcuni di questi stati questo ha comportato nel divieto nella circolazione di queste vetture. Il vero errore sta da parte dello Stato del non aver avuto la lungimiranza di pensare che questa situazione si sarebbe presentata prima o poi e che è nel beneficio del consumatore e quindi del cittadino riuscire a garantire quello che è il servizio migliore alle persone. Quindi tu dici, in questo caso non è un esempio, non dico né positivo né negativo, diciamo non c'è un esempio di cambiamento, ma voi dite bisogna accorgersi di questi cambiamenti, e questo è un esempio, non necessariamente deve farsi, diciamo la legge deve cambiare in questo ambito. Attenzione però, non è possibile non fare niente. Il mondo va avanti, il mondo oggi è aperto, l'ha detto 25 anni fa Gorbaciov abbiamo visto come lì è andato a finire. Una nazione che sceglie di non fare niente in realtà retrocede, e quindi l'Italia e tutte le altre nazioni devono decidere da regolamentazioni ambientali, da regolamentazioni relativamente alle ricerche biotecnologiche, OGM, eccetera, che cosa vogliono fare, e sono liberi di farlo, è molto importante. Nessuno obbliga una nazione. Aggiungo nel caso specifico che, tornando a quello che tu dicevi, Davide, delle opportunità di business che ci sono se ci si accorge di questo cambiamento, il settore dei taxi dovrebbe comprendere i cambiamenti, io penso che lo abbiano compreso perché stanno nascendo delle app. Il problema è che bisogna comprenderlo profondamente perché poi queste app devono funzionare per bene, c'è tutto un tema anche di soddisfazione del cliente che può reagire grazie alla Network Society. Qualche anno fa al Chaos Computer Club Conference di Berlino, Brad Pattis, che è il fondatore di MakerBot, ha fatto vedere una slide che mi ha cambiato la vita. Addirittura. Sulla slide c'era scritto "Things change faster than we can die". Le cose cambiano più rapidamente di quanto velocemente riusciamo a morire. Cioè oggi le persone non possono aspettare che ci sia un cambiamento generazionale. Poteva essere un privilegio di 40 anni fa, e oggi se tu hai 50 anni e ci sono delle cose che ti spaventano, devi metterti in testa, come hai detto giustamente, di capirle a fondo. Sì. E dopo, in modo informato, andare avanti sulla tua strada in una direzione o nell'altra. Sì. Cosimo, che cosa fate come Network Society in Italia, quindi all'interno di un paese? Che tipo di attività fate? L'attività che un ambasciatore ricopre all'interno di un paese, che sia l'Italia o che sia gli Stati Uniti o che sia la Germania, è quella di far partire la scintilla di una discussione aperta e concreta di quelle che sono gli applicativi delle diverse tecnologie facenti parte degli 8 pilastri. Quindi nel modo più manuale, in quale modo una persona comune può avere accesso a un impianto di un pannello solare, oppure in che modo può un designer o un creativo avere accesso a una stampante 3D, come procurarsene una e come può istruirsi per utilizzarla al meglio. Queste sono le tematiche che più ci premono, perché sappiamo che possono avere il più ampio interesse, il più grande impatto anche, se vogliamo, sulle persone, sui cittadini di ogni paese. David, non trovi che alcune di queste cose siano anche complesse da comprendere? Assolutamente sì, e la facilità con cui nuovi strumenti ci permettono di entrare nel dettaglio e quindi trasformare cose che prima sembravano complesse in qualcosa che ci viene più o meno naturale è una coincidenza che solo in superficie sembra tale. È proprio l'impiego degli strumenti come gli smartphone, come l'apprendimento online, come la capacità di incontrarsi con persone che hanno lo stesso interesse tuo, anche se non abitate nello stesso villaggio, che accelera questo processo. Voi state, adesso non so quando arriverà questa novità, l'avete annunciata proprio in questi giorni, all'interno di Network Society, costruendo anche un indice che serve a cosa? E abbiamo annunciato una metodologia per misurare la compatibilità delle strategie aziendali e governative con questo cambiamento inarrestabile, la Network Society Readiness Index. Stiamo procedendo a certificare delle strutture di consulenza che sono in grado di affiancare le aziende o strutture municipali o governi che vogliano capire come sono messi. Le decisioni che stanno prendendo saranno sostenibili in futuro oppure stanno andando contro quello che è l'onda lunga della storia. E oggi in effetti siamo molto, molto contenti di poter annunciare che anche in Italia questo si sta muovendo. E una struttura che magari anche i tuoi ascoltatori hanno già sentito nominare, H-Farm Ventures, che è sia un investitore che un incubatore acceleratore vicino a Venezia, sarà la prima società italiana ad essere misurata in base a questo indice, con l'aiuto della società di consulenza Nativa. Innovare i modelli di business e capire come la modifica dei metodi precedentemente validi è necessaria per garantire una sostenibilità economica e finanziaria dell'impresa in futuro, oggi è irrinunciabile. E questa iniziativa permetterà di dare una chiave di lettura all'interno di questo quadro di riferimento della Network Society con l'indice che guiderà quindi l'adeguamento delle strategie aziendali. Bene, io ringrazio David Orban per essere stato con noi. Cosimo Orban, la prossima volta che torni nei nostri studi parleremo di NFC. Lo faremo in una maniera forse sorprendente. Lo dico io o lo dici tu? Ma lo posso dico io. Vai, perché tu. Dovete sapere che David Orban è uno dei pochi al mondo che ha sotto pelle in una mano un chip NFC che usi già. Per far cosa? Allora, è una cosa sicuramente sperimentale, un po' come quando ti sei portato a casa l'Apple 2 e tua moglie ti chiedeva ma cosa ci fai? E tu dicevi ci smanetto e io cosa ci devo fare? E ci puoi tenere le ricette. Ti rideva in faccia. Oggi a chiunque ne parlo di questo impianto mi ridono in faccia se va bene oppure inorridiscono se va male. Io non ho riso, ho detto che sei un po' pazzo, però anche i tuoi figli hanno detto così. E allora la nostra ciborghizzazione in realtà è partita 100.000 anni fa quando abbiamo scelto il fuoco per digerire il cibo fuori dallo stomaco in modo che il nostro cervello potesse essere nutrito senza che dedicassimo 8 ore al giorno a mangiare, sì, come fanno magari i gorilla. E quindi già da allora siamo degli ibridi tecnologici. Oggi anche questo sta accelerando e quindi la mia sperimentazione, la mia autosperimentazione in questa direzione, oggi tengo nel chip NFC la chiave privata del mio borsello Bitcoin. Il borsellino Bitcoin. Bene, grazie e buon lavoro, a presto. Grazie. Grazie. Questa che state ascoltando è la versione podcast di 2024, grazie per aver scaricato, per ascoltarla in streaming. Io sono Enrico Paglierini, come sempre grazie per la vostra attenzione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ringraziamo anche Anita Panizza che ci aiuta durante la settimana. Ci risentiamo venerdì alle 22 fino alle 23, domenica tra le 13 e le 13.30, naturalmente come sempre in podcast, anche con contenuti aggiuntivi. Anche questa settimana le nostre interviste nella versione podcast sono in versione integrale. Naturalmente non abbiamo messo i fuori onda, a volte dico questo fuori onda che magari gli ospiti mi raccontano prima o dopo la trasmissione, che è molto interessante, dovrebbe essere inserito nel podcast, però diventerebbe un po' più complicato e anche non molto corretto. Ci risentiamo tra 7 giorni. 2024. 2024. 31 seconds and we're